il governo ha preso coscienza del fatto che le carceri potevano trasformarsi davvero in una bomba sanitaria e che prima di tutto era necessario fare spazio, perché in un carcere, nella situazione in cui siamo adesso con il tasso di affollamento, diciamo, in cui eravamo fino a 15 giorni fa, non è possibile praticare alcun tipo di isolamento sanitario. Già di questo si è accorta la magistratura di sorveglianza, perché prima di qualsiasi modifica normativa, quindi proprio a bocce ferme dal punto di vista legislativo, ha fatto uscire nel mese di marzo circa 3.000 persone, principalmente con la detenzione domiciliare, che già c'era ovviamente, applicandola con, diciamo, maglie più larghe. La magistratura di sorveglianza ha sempre una discrezionalità e una voce in capitolo. A questo poi si è aggiunto nel decreto Cura Italia due articoli, il 123 e il 124, che sono segnatamente dedicati alle carceri e che aumentano ulteriormente, e questa volta proprio normativamente, non solo come un'interpretazione estensiva, aumentano, comunque diciamo modificano l'applicazione della detenzione domiciliare per l'ultimo periodo di pena, rendendo più snella la procedura, ma escludono dalla possibilità di accedere alla detenzione domiciliare quei detenuti che hanno avuto a che fare con le rivolte. Contemporaneamente permettono a tutti i detenuti in semilibertà di restare fuori, quindi chi usciva di giorno e rientrava di notte adesso sta sempre fuori. Queste misure si stanno applicando. Noi come Antigone abbiamo messo al lavoro una task force di avvocati ed esperti, sono circa 50, che hanno prodotto dei modelli agili per chiedere la detenzione domiciliare, stanno raccogliendo richieste dalle carceri, una quantità enorme, li aiutano a compilare questi modelli, e noi stiamo richiedendo detenzioni domiciliari a raffica, perché più gente si tira fuori da là, più vite salveremo quando il virus entrerà, più le persone staranno al sicuro dentro e fuori, perché si tratta di tutta gente che va a pesare sul sistema sanitario nazionale. Quindi però vediamo che le stanno applicando, quindi le misure le stanno dando, il carcere si sta svuotando, si sono anche organizzati molto meglio rispetto ai contatti con l'esterno, hanno comprato gli smartphone, cosa che non era mai successa nella storia del sistema penitenziario. La parola cellulare in carcere è una parolaccia, cioè considerata il cianuro. Adesso ci sono gli smartphone con cui i detenuti telefonano con WhatsApp. Dove meglio, dove peggio, il nostro sistema penitenziario è sempre stato a macchia di leopardo e sempre lo sarà, perché abbiamo 200 istituti, che sono tantissimi, però insomma le cose stanno andando meglio. Ieri abbiamo visto però l'appello da parte dei garanti dei detenuti sparsi un po' in tutta Italia, che chiedono di incrementare ulteriormente queste misure contenute nel Cura Italia, cioè di poter permettere di uscire dal carcere a un numero maggiore di persone. Assolutamente, hanno ragionissimo, ed è quello che abbiamo chiesto anche noi. Adesso il decreto è in fase di conversione in legge e noi insieme ad altre organizzazioni abbiamo presentato al Parlamento un pacchetto di emendamenti che va esattamente in questa direzione, cioè che allarga anche più, ancora di più, ma parecchio di più, perché non bastano poche migliaia di persone, devono uscirne decine di migliaia, allarghino ancora di più le maglie della detenzione domiciliare, dell'affidamento in prova ai servizi sociali per le persone che non sono pericolose, che già sono state valutate tali, che hanno poca pena da ancora rimasta da eseguire e che hanno o che hanno delle patologie sanitarie che potrebbero essere seriamente aggravate dal virus. Noi speriamo che questi emendamenti verranno accolti, ma il punto è fare presto, bisogna fare presto, perché quando arriva il virus si diffonde con troppa rapidità là dentro. Ci sono dati ufficiali che monitorano la situazione dei contagi all'interno delle carceri? Perché qualche giorno fa il ministro Bonafede aveva parlato di una quindicina di casi tra detenuti e guardie penitenziarie, e si sa qualcosa di più? Veramente non voglio sbilanciarci, perché noi non ne abbiamo, nel senso che ci arrivano delle voci, leggiamo quello che escono, che esce sui giornali. Gli unici ufficiali sono quelli che ha detto Bonafede, cioè il governo ci ha raccontato di quei 15. Ogni tanto esce qualcosa sul giornale, ma soprattutto noi siamo bombardati da mail, telefonate, eccetera, di parenti allarmati che dicono: nel carcere dove sta mio marito c'è un infermiere positivo, nel carcere dove sta mio figlio ci sono due detenuti 20 morti addirittura c'è stato detto, ma non era vero, perché siamo andati a verificare con il garante di quel posto e non era vero. Si sta diffondendo il panico, può darsi che ci sia qualche contagiato in più rispetto ai 15 di Bonafede, anche perché è passato qualche giorno, ma noi non lo sappiamo, può darsi anche di no, ma sicuramente non tutti i casi che ci sono segnalati sono veri, altrimenti saremmo veramente già nei problemi. Ma poi abbiamo verificato che non è così, carceri che erano del tutto tranquille invece ci sono state presentate dai parenti come in rivolta perché i detenuti hanno saputo che era entrato il virus e non era assolutamente vero, perché i parenti sono impauriti, quindi basta una piccola voce detta male, detta storta, che diventa ovviamente una montagna di paura e quindi si traduce in queste espressioni. Invece cerchiamo di mantenere la calma, guardiamo solamente i fatti, guardiamo le cose come stanno, ascoltiamo i dati ufficiali, restiamo uniti e fidiamoci un po', perché ce la faremo, insomma.